Credo che sia molto importante per la riflessione intorno al rapporto tra arte e economia e agli artisti che ragionano sul tema dell'economia. Un libro che è stato pubblicato nel 2005, l'autore è Olav Vertuis. Il libro si chiama Imaginary Economics, Contemporary Artists and World of Big Money, tradotto in italiano nel 2009 col titolo Imaginary Economics, quando l'arte sfida il capitalismo. E questo libro considera l'arte contemporanea come fonte di conoscenza sull'economia, concentrandosi sui mezzi non verbali, visivi o poetici usati dagli artisti contemporanei per riflettere su una varietà di questioni economiche, oppure per commentare, indagare, definire e criticare il senso di concetti e processi dell'economia, però anche prendendo in considerazione artisti che non si limitano alla riflessione, ma che progettano le loro economie alternative con tanto di nuova valuta. E una domanda fondamentale, secondo me, che Vertuis si pone è questa: come si spiega, si chiede Vertuis, l'interesse dimostrato dagli artisti per il denaro, al di là delle ovvie ragioni materiali? E Vertuis si dà tra l'altro questa risposta: l'uno e l'altro sono sistemi simbolici, il loro valore non è intrinseco, ma è una costruzione sociale. La società presenta convenzioni e istituzioni di ogni sorta, rispettivamente i musei e le banche, su cui questi sistemi basano il loro senso e che conferiscono sia all'arte che al denaro legittimità e valore. Nessuno scambio potrebbe aver luogo se non vigesse la fede in un pezzo di carta stampata. L'arte non nascerebbe senza un concetto di convenzioni artistiche. Infine, tanto l'arte quanto il denaro sono astrazioni. Ora io con questa tesi sono sostanzialmente d'accordo, anche se sono consapevole che questa tesi troverebbe facilmente non pochi critici, sia rispetto al fatto che all'affermazione per cui l'arte è una convenzione e si basa sulla fiducia, sia rispetto all'economia, per cui l'economia è una convenzione e si basa sulla fiducia. Tuttavia penso che questa spiegazione di Vertuis sia quindi valida, però non esauriente, nel senso che è vero, secondo me, che anche questa affinità strutturale tra l'arte e l'economia esiste, anche se pensiamo che poi l'arte più interessata, appunto più affascinata dai processi economici è l'arte concettuale. D'altra parte pensiamo quanto la stessa economia nell'ultimo trentennio sia sempre più concettuale, ovvero sempre più fondata su modelli matematici attraverso i quali si esplica quel famigerato concetto che chiamiamo finanziarizzazione. E a questo proposito mi viene in mente un documentario realizzato da Arthur Zimojevski, Quants, The Alchemist of Wall Street, 2010, e nel quale appunto esplora come il sistema finanziario globale sia diventato sempre più dipendente dai modelli matematici che tentano di quantificare il comportamento economico dell'uomo, sostanzialmente quindi riducendo l'economia ad una sorta di scienza esatta, senza valutare quello che può essere invece il discorso dell'imprevedibilità umana. Io credo comunque, al di là di questo, che il legame tra artisti e economia, la fascinazione degli artisti per l'economia, si possa riferire anche a un altro fattore. E a questo proposito mi viene in mente una celebre frase di Marx, dalla quale poi parte il teorico marxista Karel Taide, che è tra gli esponenti di maggior rilievo nell'elaborazione di una teoria marxista dell'arte del Novecento, e questa citazione, sempre che sto per pronunciare, è anche una delle tre citazioni con le quali apro la mia monografia su Ansake il contesto politico come materiale. Marx dice: il modo di produzione capitalistico è ostile a certi settori della creazione spirituale, quali le arti figurative e la poesia. Con questo Marx sembra additare appunto la strutturale contraddizione esistente tra una pratica che si manifesta in quanto esercizio di libertà incondizionata ed un sistema che, malgrado la sua enorme flessibilità, che è stata non di rado evidenziata se non celebrata, e non solo dagli apologeti del capitalismo ma anche dai suoi detrattori, malgrado questa enorme flessibilità, il capitalismo non è mai in grado di aderire a quella che è la complessità imponderabile dell'umano. È vero che il capitalismo è sempre nel tempo si è connotato quale formidabile dispositivo di integrazione rispetto all'arte d'avanguardia e all'arte più critica, però è anche vero che molto spesso la cattura non riesce, e quando la cattura l'integrazione non riesce, molto più spesso di quanto comunemente si creda, si ricorre alla censura, ovvero a una reazione uguale e contraria. E la censura però, in un contesto capitalista in cui sostanzialmente il potere dell'economia viene al di sopra, sta al di sopra di tutto, non si esplica tanto come siamo abituati a pensare nei regimi totalitari sovietici o nazifascisti, con la repressione poliziesca, quanto con una sorta di sottrazione di capitale. Se noi pensiamo che Guy Debord definisce, no, la celebre definizione di della società dello spettacolo di Debord, il capitale portato ad un certo grado di accumulazione da divenire immagine. Quindi nel contesto di una società in cui il capitale assurge ad autentico perno, la censura si fonderà semplicemente su una sottrazione di capitale. Ma chiaramente, quando faccio tali riflessioni, non mi sto riferendo alle arti star, bensì a quello che, come si usa dire in questi tempi, il 99% degli artisti. Il 99% degli artisti sappiamo che vive questo conflitto permanente tra l'inestirpabile volontà di liberare creazione ed espressione e le necessità di ancorare tutte queste alle logiche economiche vigenti. Del resto poi mi viene in mente a questo proposito un discorso che fa Argan, perché in effetti il conflitto tra fini e mezzi è assolutamente strutturale rispetto all'economia di mercato, però probabilmente nell'arte c'è ancora di più. Argan dice proprio che nel passaggio da un'economia in cui l'artigianato era il paradigma economico all'industria del capitalismo, diciamo, che nasce verso la fine del Settecento, sostanzialmente l'arte diventa anacronistica, diventa la grande contraddizione, un qualcosa di che risponde più di ogni altro, più di un'altra disciplina, logiche assolutamente divergenti, e da qui anche, diciamo, tutta la trasformazione legata all'avanguardia. È la caratteristica dell'avanguardia di essere contro, però anche di cambiare in maniera così radicale e compulsiva, e che in effetti anche questo cambiamento compulsivo è una sorta di reazione imitazione rispetto a quello che è poi la logica dello sviluppo del capitalismo e la logica della distruzione creatrice, potremmo chiamarla, no? E per tornare al punto, quindi io credo che vivendo gli artisti più di ogni altro, il 99% degli artisti, sperimentando quotidianamente la non coincidenza tra mercato e libertà, questi artisti sentono anche più forte l'esigenza di trascendere le regole del mercato e pensare appunto a sistemi economici d'alternativa e trasformare il loro stesso lavoro in un paradigma economico d'alternativa. Sostituendo l'arte col denaro, dice Daniele Spoerrini, mettiamo un'astrazione al posto di un'altra. Questo aforisma io credo che sia in grado di descrivere eloquentemente la logica propria di quegli artisti e collettivi che operano tale trasformazione e che pongono appunto l'arte al posto del denaro. È un precursore in tal senso, può considerarsi ancora una volta Marcel Duchamp, e qualora si prendano in considerazione delle sue opere meno conosciute, che però comunque sono iniziate durante quel periodo più rappresentativo della sua carriera, ovvero la seconda metà degli anni 10. E, infatti lui nel 1919 realizza questo assegno di $115, garantito da un'immaginaria Tits Loans and Trust Company Consolidated, con sede a Wall Street, immaginaria però, e l'unica anomalia di questo assegno è che è un assegno di dimensioni abnormi rispetto ad assegni normali, e ovviamente poi ha la sua firma invece di quella del governatore della banca, della Federal Reserve, insomma, non so se già allora si chiamano così, credo di sì. E con questo assegno paga il suo dentista, Daniel Zank. E quindi questo è il primo atto in cui appunto lui sostituisce la fiducia nel denaro con la fiducia nell'arte. E 5 anni dopo invece decide di realizzare una serie di Ah, c'è anche da dire un'altra cosa, che sostanzialmente poi questo grande assegno diciamo, è basato su una sorta di inversione concettuale, perché se Duchamp nei suoi ready-made più famosi come lo scolabottiglie, l'orinatorio, sostanzialmente ci aveva messo un attimo almeno nella fattura, nel senso che lo sceglie e lo pone in mostra, invece in questo caso la realizzazione aveva impiegato una grande mole di tempo e di fatica per ricopiare tutti i particolari, i dettagli. 5 anni più tardi, dicevo, è la volta delle obbligazioni per la roulette di Monte Carlo, attraverso le quali intende finanziare un audace progetto in cui voleva dimostrare che è possibile vincere soldi alla roulette in virtù della razionalità e del calcolo piuttosto che del caso della fortuna. Però questo progetto fu accolto con scarso entusiasmo dai suoi sostenitori, da Catherine Dreyer, che ritenne l'atmosfera del casino poco adatta allo spirito sensibile di Duchamp, ad André Breton, che invece temeva un allontanamento sempre maggiore di Duchamp dall'arte. E quindi sostanzialmente il progetto di Duchamp fallisce, nel senso che questi titoli della roulette non vengono accettati, non vengono acquistati. Altri due documenti finanziari infine invece furono prodotti da Duchamp verso la fine della sua vita. Uno è semplicemente la firma della tessera di appartenenza dell'amico John Cage ad un circolo micologico, ovvero ad un circolo della raccolta di funghi. Anche qui, parentesi, c'è tutto il discorso di John Cage, che come Duchamp era un artista molto attratto e distratto da altri hobby, i funghi. E tra l'altro la cosa simpatica è che John Cage fu molto sorpreso dal fatto che musica e funghi in inglese, non so come si dica, comunque la radice deriva insomma dal discorso della micologia, hanno nel vocabolario, sono abbastanza vicini. E quindi uno è questa firma, e l'altro invece è la firma che Duchamp appone all'assegno, incollato su una pagina di un catalogo che riproduceva l'assegno con cui aveva pagato il dentista. E questa pagina del catalogo viene posta da Philippe Brunot, che era sostanzialmente un suo fan, e Duchamp decide di firmarlo. E quindi questo Philippe Brunot ha avuto fortuna. Un autentico continuatore di Duchamp e dei suoi documenti finanziari, circa 70 anni dopo, può considerarsi, credo, lo statunitense J.S. G. Boggs, che però non si riferisce ai titoli finanziari, ma riproduce il denaro vero e proprio, e che però opera una sorta di sistematizzazione di questa pratica. Pensa che usa questo, le copia meticolosamente delle banconote, e poi cerca di usare negli scambi economici di tutti i giorni, ed è arrivato ad effettuare transazioni per un valore di 1 milione di euro. Benché le banconote poi siano perfettamente distinguibili dalle autentiche, dato che Vogue si inserisce nel verso quanto di più improbabile si possa concepire, cioè dalla sua firma al posto di quella del governatore della banca, oppure dall'immagine del palazzo della Corte Suprema degli Stati Uniti invece del palazzo del Tesoro, fino al suo ritratto come giovane arrabbiato. E malgrado questo, il copiare le banconote gli ha provocato non poche cause giudiziarie per contraffazione, anche se appunto essendo immediatamente riconoscibili, probabilmente queste cause non avrebbero ragione di esistere. Del resto, sempre Vertuis osserva questo, che la stretta sorveglianza tenuta dalle autorità su chi pratica la money art è un chiaro indice della natura fragile del denaro. La funzione di mezzo di scambio delle banconote, in ultima analisi, non si basa su altro che sulla fiducia. E torniamo al discorso della fede istituita dalle banche e dai musei, sulle quali si basano rispettivamente l'economia e l'arte, la moneta e l'arte. Sulla fiducia, quindi, diceva Vertuis, e per proteggere il monopolio governativo sulla stampa del denaro è necessario che qualunque alterazione del denaro venga proibita, anche se l'alterazione è opera degli artisti. Ma su molti artisti è proprio quella fiducia ad esercitare un fascino irresistibile, cioè perché irresistibile è esattamente l'occasione di scuotere la solita fede nella carta stampata. Molte delle proposte artistiche più recenti, che si muovono in tal senso, si collocano nel solco di una più ampia gamma di esperimenti, un po' in ogni parte del mondo, che sono condotti da attivisti e movimenti che mirano alla messa a punto di soluzioni alternative ai caratteri omogeneizzanti della globalizzazione neoliberista. In tal senso, per esempio, è leggibile l'operazione svoltasi a Berlino nel 1993, dallorché 55 artisti fabbricarono del denaro sotto il nome di soldi d'osso, che poi venne adoperato come mezzo di pagamento nel quartiere di Prenzlauer Berg, che è un quartiere di Berlino, benché entro certi limiti, già nel 1993. E il tentativo di fabbricare una propria moneta destinata a fungere da moneta ufficiale della propria città nei pressi di Rotterdam venne compiuto anche dal collettivo olandese Atelier van de Schut, ma però l'alto costo della circolazione finì per impedire la circolazione dei biglietti. Però qui, considerando l'Atelier van de Schut, veniamo ad un altro ad un discorso un po' differente, che sposta il discorso dell'economia alternativa dal piano della moneta a quello della produzione, perché questo riguarda l'atelier olandese, ma anche altri collettivi, per esempio i danesi Superflex, oppure il duo anglo-argentino dello studio Horta. E qui, in questo caso, io, più che di Duchamp, parlerei come soggetto precorritore, penserei un po' alla Bauhaus per certi versi. Dunque, l'atelier van de Schut concepisce oggetti, ambienti o addirittura intere città, come la BL Ville, che già nell'estetica estemporanea e fra i dati si dichiarano alternative alla nostra quotidianità overdesigned. Spesso non funzionano o rimangono irrealizzabili utopie o distopie, a seconda dei punti di vista, ma il loro scopo è proprio quello di generare una critica alla contemporaneità ultraprogettata, iperproduttiva e altrettanto furiosamente consumistica. Così si esprime la Caroline Corbetta sulle 24 ore. E quindi, se io credo che in questo caso qui ci sia però una certa ambiguità, ecco, si tratta di progettare delle alternative, però probabilmente poi si incorre più o meno volontariamente anche in certi paradossi e nel tentativo appunto di essere critici rispetto ad un certo tipo di progettazione. Diverso è il caso del collettivo danese Superflex, fondato nel 95, mentre Atelier van de Schut è fondato nel 93, che invece mira a provocare con strategie ed azioni riproponibili in varie situazioni e da vari soggetti, così come a preservare la pratica artistica come strumento operativo al di fuori del tradizionale sistema museo galleria collezionista. Il suo progetto più celebre è senz'altro Biogas, nell'ambito del quale, con l'aiuto di ingegneri danesi ed africani, realizzano, questo progetto parte dal 97, realizzano piccole unità portatili per la produzione di biogas che possono servire al fabbisogno delle giornaliere o quotidiano delle famiglie africane di luce e di gas. Queste piccole centrali si basano sull'utilizzo di materiali organici come gli escrementi, e quindi questo è uno dei paradigmi il più celebre, è un esempio più uno degli esempi più celebri di quello che fa Superflex. E poi c'è ancora, dicevo, lo studio Horta, che di Lucy e Gheorghe Horta, fondato nel 91, che sono invece promotori di progetti come Horta Water, ispirato, come si può ben capire, al problema dell'acqua, della mancanza d'acqua, del depauperamento, della privatizzazione. E questo progetto è basato tanto a produrre una presa di coscienza di tale condizione di negatività, quanto a mettere a punto degli strumenti rudimentali e d'emergenza, però funzionali, per l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione di acqua potabile, in grado di fronteggiare questa emergenza. E un altro progetto di studio Horta molto interessante è l'Antarctic Village, che sorge su un territorio non sottoposto a giurisdizione nazionale ed è interamente protetto da una convenzione internazionale. in quanto riserva ambientale scientifica. Questo progetto si pone l'obiettivo di accogliere popoli di ogni etnia, ovvero tutti quei milioni di donne, di uomini che a causa delle guerre, carestie, persecuzioni politiche, religiose o razziali sono costretti a fuggire dai propri paesi. E quindi ecco una sorta di possibile città utopica che in qualche modo reagisce anche a quello che sappiamo essere la contraddizione più evidente della globalizzazione neoliberista, per cui i capitali e le merci possono viaggiare, ma non possono viaggiare liberamente gli uomini. Per concludere, nel nostro discorso rientrano pienamente anche altri due progetti, ovvero il baratto creativo, la piattaforma del baratto creativo, Barter, l'acronimo, e l'opificio di economia potenziale, Opecopo, ideati rispettivamente da Michelangelo Conzani e Giacomo Faiella, e, tra l'altro quasi contemporaneamente, tra il 2006 e il 2007. Significativo il fatto che siano stati concepiti in quel periodo, perché in quel periodo si iniziavano ad avvertire i protomi della crisi globale che poi è esplosa negli anni successivi. Date le notevoli affinità tra questi due progetti, io all'epoca pensavo anche di associarli in una sorta di doppia personale, se forse ti ricordi, che però poi non riuscì a fare, perché l'affinità chiaramente è nella ricerca, nel costruirsi come una sorta di archivio basato sulla partecipazione e diciamo, sull'accumulo e la divulgazione di tutta una serie di paradigmi di economia alternativi. Il principale fattore che li distingue è probabilmente quello per cui il progetto di Michelangelo Conzani è basato sul baratto, mentre quello di Giacomo Faiella è basato su una diversa moneta, come sappiamo. E cosa scrive Michelangelo Conzani a proposito del manifesto di Barter? Dice che è scaturito dall'analisi di un articolo di Jean-Pierre Dupuy intitolato Ivan Illich o la Bonne Nouvelle, pubblicato sulle Monde alla fine del 2002, e da alcune considerazioni che l'economista Serge Latouche trae da questo. Quindi Ivan Illich, l'autore della convivialità, che sostanzialmente è un precursore di quello che poi è il movimento della decrescita, che ha probabilmente il suo maggiore ideologo in Serge Latouche, nell'economista francese Serge Latouche. Barter si definisce un progetto per un'esperienza diretta e radicale della realtà, che intende riflettere sulle nuove possibili alternative economiche creative e sulla riscoperta di modelli economici regressi, cercando di abolire il concetto di spettatore a favore di chi partecipa attivamente alle riflessioni, superando il particolarismo delle proprie competenze e personali campi di azione per agire nell'interesse comune come uno spazio libero e interattivo, un contenitore laboratorio mobile che ha tracimato l'argine della realtà e che vive dappertutto, anche all'interno di altre manifestazioni ed eventi. Il suo obiettivo principale è quello di creare una rete internazionale di collegamenti, raccogliere esperienze, informazioni e documentazioni sulle nuove forme di economia alternativa, analizzare i concetti di dono e di baratto, verificandone i limiti e le possibilità, cercando di creare un collegamento con i gruppi singoli che attivamente e quotidianamente li applicano. Il secondo progetto, invece, quello di Giacomo Faiella, è ricalcato su Opeco, opificio di letteratura potenziale, e si iscrive all'interno dell'Istituto Patafisico Partenopeo, l'Istituto Patafisico Partenopeo che ha come primo obiettivo la lotta contro ogni forma di potere, almeno così dichiara, ed è un laboratorio in cui si sviluppano tutte le possibili forme di economia, possibili e impossibili, più o meno utopiche. E si parla per esempio dello iato che esiste tra valore reale e valore nominale di una moneta, per esempio di una banconota, il cui valore reale è sostanzialmente di pochi centesimi rispetto al valore nominale, che può essere 50 o 100 euro. Oppure c'è la proposta di fabbricare la moneta con materiali di risulta. E poi all'interno di questo discorso, chiaramente Giacomo Faiella accoglie anche il progetto dell'associazione Omnibus Masaniello, nato più o meno anche quello intorno a quegli anni, ovvero alla fine del primo decennio del XXI secolo, sono insieme a Masaniello e quindi di questo buono sconto o moneta alternativa. In realtà loro per tutta una serie di opportunità preferiscono chiamarlo sconto, che si chiama SHEC, acronimo che sta per sconto che cammina, e che poi no, però poi mi pare che cambiarono in solidarietà che cammina, sempre per tutta una serie di opportunità anche giuridiche. Questo progetto trae origine dalla presa di coscienza del paradosso. Oggi abbiamo una produzione di beni e di servizi che nella storia, una possibilità di produrre beni e servizi che nella storia dell'umanità non è mai stata così ingente, però a questo corrisponde una fatica sempre maggiore dei cittadini a soddisfare i bisogni elementari, nonché un continuo aumento appunto delle ore di lavoro, della precarizzazione a fronte della compressione dei salari. Questa contraddizione per l'associazione Masaniello si spiega con la scarsità di moneta che l'attuale sistema economico ha creato nelle nostre società. La moneta, sostengono i membri dell'associazione, si è trasformata da strumento di scambio in strumento di potere umiliante, schiavizzante e deprimente dell'economia sia locale che mondiale. Essi considerano tutto ciò una conseguenza della perdita di sovranità monetaria da parte degli stati e delle comunità in favore dei sistemi bancari privati, in primis delle banche centrali, che regolano senza nessun controllo la politica monetaria. L'economia, sostengono ancora gli attivisti dell'associazione Masaniello, è invece una scienza molto semplice ed è legata alle persone di una comunità e al denaro di cui sono sovrani. Tutte queste cose, anche qui è bene ricordarle, sono state dette prima, sono state dette teorizzate da loro un po' prima che appunto avvenissero tutte quelle vicende dei subprime, i fallimenti della Lehman Brothers che conosciamo bene, e che quindi cominciasse ad essere in voga il discorso sulla finanziarizzazione, sull'economia virtuale, eccetera, insomma, no? Perché fino a qualche anno fa non era così in voga. E quindi la soluzione dell'associazione Masaniello è appunto questo SHEC o sconto che cammina, che è un buono sconto con il quale ho moneta alternativa, la cui grafica è tra l'altro progettata proprio da Giacomo Faiella, che può, diciamo, affianca per il 20% sostanzialmente la moneta corrente tra gli affiliati, che possono essere negozi o singoli cittadini, quindi anche qui una moneta alternativa, ma con certi limiti.